sognato, racconta leggende di antichi signori del tempo. Il cancello di ferro tra l'anima sposta a difendere il regno di un uomo potente. Il lungo viale di un'ora curata, insieme al tradotto ti fanno sognare riflessi di luce e foglie cadenti, paesaggi che si sta costruendo. Un uomo ambizioso che decide per tutti, vuole avere per sé quel che gli altri non hanno. Una donna